Radio Picnic with Collaboradio on 8080.4 Creative Radio in Berlin. Ist, so ist es doch gewiss eine Erfindung, die ihm Ehre macht.

Mama, Oh! Sangonviole, Salomo, Sossollaccio, ne ve lo gava, le due cavalli, le terzi, vole pote, te segomi, c'è la martella, riatte, se la seni, la blastemma, gli semena, vanno su, la nuvate, la bovigliesta, te guarda, vanno tutte pie, ne ve bahu, te infrata, vanno signore me, gli laio, toverce, lo per salva, le lavi, dai due terzi, vole cavale, e dove signore me, gliela batta, gli adura treu, le de femmeffe, mo malafi, li due cavalli, le sedie, le due ca, peterri, volove sepi, gli hanno suie, me lo viola, lo cani storti, lo attretta, te lo rena, lo mapo, gli du, gli reto, nano vero, vesse gomi, c'è l'ute suassa, lo più ferro, c'è più terzi, volete lo pri, me lo seco, volove signore me, gli si olla, lo panevone, te lo terzi, volete la, dopare, valo a chi le cre, cocolo, gli che ucce, colo, gli che brucio, la città, dietro, gli dove signore me, i due guerri, le se martella, vanno a marte, lo malafi, nisso, li anda, no a tramonto, lo viola, lo chiamarto. Un londo arrabbiato, aspetta. Bisogna che noi termineremo la battaglia qui quest'oggi. Vedi che il sole è andato a tracollo, dove tu pensai il codice cavalleresco, quindi dissi bisogna ritirarci e domani riprendere di nuovo la battaglia al medesimo posto. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.

Musik bei der grossen Spelunke Christoph Piet und die kleine Spelunke Johnny Away. Live auf Radio Picnic in Brussels. Radio Picnic with Collaboradio on 8080.4 Creative Radio in Berlin.